Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Inizia un'altra puntata di Focus Economia con voi, Sebastiano Barisoni. I temi di questa giornata economico-finanziaria. Allora, fermo restando che anche oggi sono uscite alcune semestrali, ossia i bilanci di metà anno dei gruppi, guardiamo soprattutto come sempre a quelli quotati, e fermo restando che i più importanti per ora hanno riguardato soprattutto Unicredito e Prismian, due andamenti diversi, cioè sono utili rettificati, cioè corretti, più bassi rispetto al 2009, i primi sei mesi del 2009. Però attenzione, la cosa più importante in questo momento non è tanto il semestre in quanto tale, ma gli ultimi tre mesi, cioè quello che si potrebbe chiamare il secondo trimestre, perché lì si cerca di capire se in realtà la ripresa tanto attesa e tanto evocata si verifica, poi anche si concretizza nei bilanci di questi gruppi. E lì devo dire che il miglioramento soprattutto per Prismian c'è negli ultimi tre mesi. Partiremo con un'anticipazione che era oggi presente sul Sole 24 Ore, ossia alla luce di quello che è tutto il percorso verso il federalismo fiscale, una cedolare sugli affitti, la cosiddetta cedolare secca, non perché ci sia quella bagnata, ma perché è una cedolare unica che sostituirà il prelievo IRPEF e scatterà da gennaio, e quindi nel 2014 invece arriverà una nuova imposta municipale che sarà pagata sul possesso degli immobili. Ne parleremo tra un attimo. E dicevo, questo potrebbe essere inserito già domani nel decreto attuativo della riforma federalista del federalismo fiscale dal Consiglio dei Ministri, che è appunto fissato per domani. Anche di questo parleremo. Poi il caso del grano, il grano anche qui inteso non come denaro ma come proprio il grano, che è successo, è a record storico. Già ieri alcuni di voi ce l'hanno segnalato, avevo promesso che ce ne saremmo occupati. C'è un motivo molto climatico che riguarda la Russia, la siccità, gli incendi, però il timore come sempre è che problemi sul grano russo poi si ripercuotono sulla filiera e già gli agricoltori sono molto molto preoccupati. 349-238-6666 per i vostri sms. Partiamo subito con le altre notizie in breve. E partiamo dalla borsa, meno 0,30 dopo la buona giornata di ieri, qualche realizzo era immaginabile, bene Fiat, e qui cercheremo di capire anche perché, insomma, non che ci faccia dispiacere, però insomma il dato di ieri sulle immatricolazioni era parecchio pesante, più 3% Fiat, più 1,7% Telecom, più 1% Mediobanca, più 0,80% Bulgari e Geox, più 0,70% Pirelli, più 0,6% il Banco Popolare, mezzo punto percentuale il rialzo di Atlantia. Mediaset invece la peggiore, meno 2,6%, Unicredito perde l'1,80% dopo i dati sul semestre, Snam meno 1,5%, Ubibanca meno 1,1% come Parmalat e Buzzi Unicem, l'1% lo perde Popolare di Milano e Mediolanum. Exor meno 0,90, Italcementi meno 0,80, Unipol pure come A2A, lo 0,70 lo perde Fondiaria Assai. Lo volete sapere già al 349-238-6666 come è messo l'euro sul dollaro? Siamo a 1,32,30, quindi leggerissimamente più debole rispetto a ieri, ma insomma ampiamente stabilmente sopra quota 1,30. Le altre borse invece, Parigi meno 0,20, Londra meno 0,30, Francoforte più 0,1, l'America meno 0,3%. E restiamo come sempre sui mercati per parlare di petrolio. Il petrolio è in rialzo a New York, stiamo viaggiando dopo il dato di ieri, era tre mesi che il petrolio non toccava gli 80 dollari al barile, mo siamo a 82,38 dollari, quindi di nuovo ai massimi da tre mesi. Nel frattempo la British Petroleum ha ceduto il suo business colombiano ad un consorzio. Il business colombiano della British Petroleum immagino sia riguardante il petrolio e non altro, a un consorzio formato al 51% da Ecopetrol, e al 49% dalla canadese Talisman. Deve far cassa la BP, perché con la mazzata che ha preso nel Golfo del Messico ha bisogno di cassa. Incasserà infatti 2 miliardi di dollari dall'operazione. Le vendite dell'attività colombiana rientrano comunque in un piano che, appunto, per far cassa e rimediare al costo, ai decine di miliardi di costo per la marea nera del Golfo del Messico, la BP sta arrivando a un piano di cessioni fino a 30 miliardi di euro. È iniziato appunto oggi con la controllata colombiana. Vedo che il grano interessa, inteso come cereale. Volete sapere quanto è cresciuto il prezzo? Beh, chi avesse fatto un future, avesse investito a Chicago, che è la borsa mondiale delle materie prime, avrebbe guadagnato in un mese il 50%. Tanto è infatti l'aumento del prezzo del grano dopo gli incendi e la siccità in Russia. E intanto iniziano, non avevamo dubbi, anche i primi rialzi nel prezzo della pasta. Vari hanno detto, beh, il produttore ha detto stiamo attenti, stiamo monitorando, non è inutile fare allarmismo eccessivo, però ne parliamo fra un attimo. Dicevo, andiamo avanti con alcune notizie americane. Dall'America, il ministro dell'economia, il segretario del tesoro Timothy Geithner, dice che i disoccupati stanno crescendo ma c'è un segnale di ripresa. I consumi però e i redditi americani restano al palo nel mese di giugno, deluse tutte le stime degli analisti, e gli ordinativi dell'industria calano dell'1,2%. Io ricordo che ieri Alan Greenspan, ex numero uno della Banca Centrale Americana, si è beccato al nostro gufo dicendo c'è una quasi recessione in America. Speriamo veramente che il gufo sia bastato, che non abbia ragione Greenspan. Nel frattempo però i titoli di Stato americano volano, come il tasso, praticamente con la AAA i titoli americani sono considerati i migliori, gli investimenti più sicuri al mondo. Ebbene, il rendimento dell'obbligazione americana a 2 anni è sceso al minimo record, allo 0,5%, e quindi, insomma, tutto sommato il mercato li ritiene ancora più affidabili. Poi c'è l'effetto delle indiscrezioni secondo cui la Banca Centrale Americana potrebbe comprare o valutare nuovi acquisti di obbligazioni nei prossimi mesi. Questo però è un segnale in chiaroscuro. Perché? Perché la Banca Americana andrà a comprare obbligazioni? Perché vede anche lei, come Greenspan, un rallentamento della ripresa economica nella seconda parte del 2010 e vuole dare un po' di sostegno all'economia. Allora, ancora due dati sull'Italia. Crolla in Italia la produttività del lavoro nel periodo 2007-2009, meno 2,7% la produttività del lavoro italiano. Negli ultimi 30 anni è cresciuta con una media dell'1,2%, già molto bassa rispetto alla media europea, ma addirittura negli ultimi 2 anni, cioè 2007-2009, è andata in negativo, è crollata. È calata molto nel 2009 anche l'occupazione delle imprese associate a Confindustria, è emerso dall'indagine condotta oggi sul mercato del lavoro, meno 2,2% nel 2009, anche se, fa notare il rapporto, la cassa integrazione ha a tuo titolo le conseguenze occupazionali, frenando di fatto la perdita di posti di lavoro. E poi le famiglie italiane. La Banca d'Italia ci ricorda che nei primi 3 mesi del 2010, io poi vorrei anche tornare a far ascoltare qualche, magari quel Mario Draghi all'Abi, adesso lo rifacciamo sentire, e anche Brunetta sulle famiglie italiane, che ci dice ai nostri microfoni, insomma, le famiglie dei lavoratori dipendenti sono più ricche, stanno meglio perché l'inflazione è bassa, non hanno avuto problemi. Sarà anche così, ma la Banca d'Italia fa notare come i debiti a carico delle famiglie solo nei primi 3 mesi del 2010 sono aumentati del 3% su base annua. 24 miliardi di euro in più di debiti in 3 mesi, non mi sembra poca cosa, è l'intera manovra finanziaria. E pesano soprattutto i mutui nelle passività delle famiglie, cresciuti di 15 miliardi come passività. E oggi, per fortuna, il Consiglio di Stato ha detto no al ricorso fatto dal governo che voleva aumentare i pedaggi autostradali dopo che il TAR del Lazio l'aveva bocciato. Insomma, il Consiglio di Stato ha detto no, ha ragione il TAR, gli aumenti autostradali vanno congelati. Bene, bene, bene, adesso andiamo col primo tema. Mi riferisco alle anticipazioni che aveva questa mattina al Sole 24 Ore in edicola su un percorso che, lo so, potrà risultare noioso poi ad agosto col caldo, con la gente che vuole andare in vacanza o che è appena tornata, non parliamo. Però, insomma, se vogliamo essere seri, noi in questo programma cerchiamo di essere nonostante il conduttore, insomma, occorre occuparsi anche di temi un po' più tecnici, perché qua di federalismo tutti si riempiono la bocca. Noi vorremmo capire come ci si arriverà, e per capire come ci si arriverà, passaggi fondamentali sono i vari decreti attuativi. Oggi il Sole 24 Ore aveva un'anticipazione che riguarda proprio questo, cioè come si pagherà l'IRPEF, detto in maniera un po' brutale, e cosa succederà dal 2014 con l'arrivo della nuova imposta comunale. Ora, nessuno qui ha la certezza, domani c'è il Consiglio dei Ministri, si parla di ipotesi, però insomma, la notizia c'è tutta: cedolare sugli affitti al 25% che sostituirà il prelievo IRPEF e scatterà da gennaio, e poi nel 2014 l'arrivo della nuova imposta municipale che sarà pagata sul possesso degli immobili, escludendo le prime case, ma anche sulle compravendite. In questo caso l'incasso finirà nelle casse dei comuni, scusate ma era tutto molto a rischio il passaggio di parole, finirà nelle casse dei comuni per un ammontare del 3% per le prime case e del 9% su tutti gli altri cespiti. Gianni Trovati mi leva, diciamo, dall'imbarazzo di spiegare elementi così tecnici. Collega del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a voi. Allora Gianni, raccontaci i vari passaggi, la cedolare come attualmente, come cambierà e cosa diventerà soprattutto, ma non solo la cedolare, perché poi si parla di tassa sui compravendita degli immobili e sulle seconde case da un lato, e dall'altro anche di nuova imposta comunale. D'accordo, sì, la cedolare secca, diciamo, è appunto un argomento tecnico poco agostano, ma per renderlo meno noioso per i proprietari diciamo subito che chi affitta, chi dà in affitto un immobile da questa misura ci dovrebbe guadagnare, e anche molto. Sostanzialmente la prima dovrebbe essere, secondo le bozze di decreto attuativo che girano adesso, appunto la prima tappa della nuova fiscalità del mattone per i comuni, e a partire dall'anno prossimo, quindi dal 2011, porrebbe un'aliquota del 25% sui redditi attuali dell'affitto. Per cui se io do in affitto una casa che costa, il cui canone è di 10.000 euro l'anno, in realtà si paga sull'85% in genere, comunque sia, pago il 25% della base imponibile, mentre oggi l'IRPEF, quindi le tasse che si pagano sulle entrate da affitti, dipendono dalla fascia di reddito del contribuente, per cui più alto è il reddito, più alta è la... Invece così non c'è differenza di reddito. Così, con aliquota piatta uguale per tutti, si va al 25%. La cosa sarà, se il testo ovviamente arriva così come adesso in Gazzetta Ufficiale, sarà opzionale per i proprietari, perché i pochi proprietari di affitti registrati che hanno comunque redditi annuali molto bassi, nell'ordine di 15.000 euro l'anno, e che oggi pagano il 23% di IRPEF, non debbano subire un aggravio del 2%. Cioè uno può decidere se pagarla al 25% o tenersi la vecchia aliquota, esatto. La vecchia aliquota, che però è progressiva. La vecchia aliquota è progressiva, e l'affitto sostanzialmente si ritiene sempre collocato nella ultima parte del reddito, per cui tu paghi l'aliquota marginale più alta del tuo reddito. Per cui sì, se tu hai devo reddito... dire che con l'evasione che c'è in questo paese sarà una bella scommessa. Certo che ci dovesse essere anche un inasprimento della lotta all'evasione e dei controlli incrociati, vedi redditometro, potrebbe essere vantaggioso a chi ha 2-3 appartamenti e guadagna effettivamente, non quello che dichiara il fisco, più di 100.000, 150.000 euro l'anno. Beh, prima di avere una contestazione fiscale, forse è meglio che tu faccia l'adesione alla cedolare secca, pago il 25, poi non mi rompete più, però insomma a quel punto non mi conteggiate neanche quanti appartamenti ho, nel senso, altrimenti senza un contrasto all'evasione è chiaro che con l'evasione che c'è molti possono avere vantaggio a pagare la parte marginale, perché dichiarano così poco che pagano meno del 25%, Gianni. Esatto, e questo è l'altro corno del provvedimento, perché c'è una lotta senza quartiere, almeno insomma sulla carta, all'evasione, in particolar modo all'evasione immobiliare e gli affitti in nero, nel senso che nel caso contestazione di un affitto in nero, e nel caso appunto in cui il contribuente abbia torto, la norma, sempre il decreto attuativo del federalismo fiscale, cancella tutti i possibili sconti per l'adesione, i vari meccanismi che il contribuente pizzicato ha in genere di mettersi d'accordo col fisco ottenendo uno sconto sulla sanzione. No, in questo caso con l'affitto in nero, con questa norma, vengono abolite per gli affitti tutti i meccanismi, diciamo, di adeguamento e quindi tutti gli sconti sulle sanzioni, e viene applicata sempre la sanzione più alta fino al 400% della contestazione, per cui insomma diventa una roba molto salata. In seconda battuta, sempre il provvedimento aumenta di molto l'interesse dei sindaci alla lotta all'evasione immobiliare, che è molto diversa insomma da città a città e da zona a zona. Noi abbiamo visto in un'inchiesta pubblicata da poco che ci sono città in cui praticamente gli affitti registrati non esistono. Sì, mi dispiace dirlo, nel sud Italia soprattutto. Una nota che è molto importante. Allora, alcuni dicono: ma no, che mattone sta cedolare sul mattone. Ho capito, però non è che si possa parlare di veline e di calciatori, soprattutto se parliamo, col massimo rispetto per le veline e i calciatori, soprattutto se parliamo di elementi che riguarderanno l'83% degli italiani, che sono la quota di italiani che ha una casa perlomeno di prima proprietà, molti hanno anche quella di seconda proprietà. Volevo dire e precisare due aspetti a chi scrive. Allora, è vero che in questo momento la cedolare secca va a vantaggio di chi dichiara già quasi tutto, perché in questo momento, se tu dichiari tutto, o perché sei obbligato come lavoratore dipendenti, o perché sei un cittadino onesto, o per tutte e due le cose, hai un vantaggio, perché in questo momento tu ti paghi la seconda casa, l'aliquota sulla seconda casa nella fascia, nella parte più alta. È anche vero però, come ricordava Gianni Trovati, che c'è un inasprimento delle norme per chi poi fa nero, per cui attenzione che c'è anche c'è una certa spinta a dichiarare, a dire attento, perché in questo modo tu te la cavi col 25 e non col 43, come adesso, per cui vai a pagare il 43%. Se ti becchiamo, non solo dovrai pagare il 43%, dovrai anche pagare cifre molto più alte. Insomma, c'è un tentativo di dire: fai lo sconto, l'abbonamento, il pacchetto tutto incluso, e ti metti a riparo da contestazioni. Se andrà avanti, questo lo vedremo, il redditometro, perché tutto questo si incrocia poi con l'idea di andare a vedere quante case, chi sono intestate e quant'altro. Secondo aspetto non indifferente, a mio avviso, è il fatto che questa tassa entrerà nelle tasche dei comuni. Perché lo dico? Perché insomma sappiamo tutti che stare a Roma è una cosa, abitare nel comune con 20.000 abitanti è un'altra, e insomma quando il comune avrà bisogno di soldi, o meglio verranno trasferite alcune risorse ai comuni perché non arriveranno più da Roma, forse, Gianni, lì il contrasto si farà, perché il sindaco sa dove abiti e l'amministratore anche, conoscono le dimensioni della tua casa, sanno se hai degli appartamenti in centro che affitti gli studenti, insomma. Esatto, diciamo che appunto dell'arruolamento dei sindaci nella lotta all'evasione finora negli ultimi 5 anni se ne è parlato tantissimo e poi è successo poco o niente, perché sostanzialmente al sindaco, soprattutto nei piccoli comuni, scocciava andare a fare le pulci in casa di un potenziale elettore e ricevendone in cambio poco o nulla. Adesso proprio su questo tema è il cambio di rotta, perché insomma una volta a regime la nuova, il nuovo sistema fiscale, gli introiti della lotta all'evasione andranno direttamente, ci sarà un rapporto diretto con il livello di entrate del sindaco, certo, che quindi in cambio potrà per esempio non alzare le aliquote locali ai contribuenti onesti, per cui, come dire, anche dal punto di vista dell'interesse del sindaco si crea un incentivo vero. È vero, perché voglio dire, inutile fare le verginelle. Allora, è chiaro che se il sindaco deve fare un contrasto all'evasione per poi perdere voti e incassare poco o niente, non te lo fa. Certo che se deve rinunciare a fare l'asilo o aumentare il costo di alcuni servizi comunali, rischiando una perdita di sicura di voti, per salvare 100 o 1000 contribuenti ricchi, che lui sa essere ricchi, che non dichiarano il fisco le loro case, probabilmente anche il sindaco preferisce prendersi 10.000 voti da una parte e perderne 100 o 1000 dall'altra, no? Questo è perché stiamo parlando comunque di soldi, non di consenso. A me sembra un'ottima norma, per quel poco che ci capisco io, di contrasto, come si chiama in gergo, all'evasione, cioè rendere vantaggioso il controllo, non semplicemente un atto così di imperio. Ancora due passaggi, Gianni, sugli altri due elementi, quindi non solo la cedolare, ma anche altri due passaggi previsti. Uno nel 2014, la nuova imposta comunale sul possesso degli immobili, e con tutta la parte delle compravendite 3-9%, e poi anche ai comuni, oltre alla cedolare, verranno devoluti anche gli introiti di imposte di bollo, di registro, ipotecario, insomma c'è tutto un insieme di altre voci. Prego. Sì, esatto, questo è tutto il resto del federalismo fiscale in chiave comunale, che ha un calendario in due passaggi. Il primo previsto a partire dall'anno prossimo, che sostanzialmente crea una torta condivisa fra Stato e comuni, con imposte di registro, le ipocatastali, i tributi speciali catastali, le tasse ipotecarie, eccetera, creano una torta che Stato e comuni si spartiscono mettendosi d'accordo ogni anno sulle quote. Prima tappa. Seconda tappa, dal 2014 invece tutte queste voci vanno a confluire nell'imposta municipale propria, che quindi andrà a tassare, diciamo, i passaggi fondamentali della casa con il fisco, vale a dire appunto il possesso di immobili diversi dall'abitazione principale, perché lo ripetiamo ancora una volta, perché tutte le volte si crea una polemica, è scritto nero su bianco, l'abitazione principale non si tocca. In nessun modo, non rientra, non ritorna l'ICI, non ritorna l'IRPEF, non ritorna nulla. E poi il trasferimento di immobili, quindi le compravendite, questo nel 2014. I sindaci poi sempre nel 2014 potranno fare una terza e ultima cosa, cioè potranno scegliere di unificare in un altro tributo unico tutte le altre vocine fiscali, la tassa dell'occupazione del suolo pubblico, oppure la TARSU o la TIA, insomma il prelievo sui rifiuti che paghiamo tutti, e tutte le altre voci di imposte locali in una tassa secondaria. Per cui dal 2014 sostanzialmente dovrebbe essere tutto molto più semplice: due tasse locali, una, come dire, sui capitoli principali degli immobili e una su tutto il resto. Il che dovrebbe anche rendere un po' più semplice capire se davvero nel mio comune il livello di pressione fiscale è più alto, certo, che nel tuo, se il sindaco un'ultima fa bene domanda o male. Che arriva dagli ascoltatori, c'è uno che scrive pasticcione, vorrei capire se è rivolto a me, a Trovati, al sindaco, no, per capire, visto che appunto siamo in periodo anche estivo. E vabbè, a parte questo, fa un esempio che a mio avviso è molto calzante, un ascoltatore dice: insomma, io ho un unico reddito dichiarato, sono disoccupato da un affitto di 7.000 euro l'anno, immagino, perché sennò complimenti, ma insomma 7.000 euro l'anno. Che cosa ci... lui scrive una cosa un po' meno aulica, quanto ci smeno, ma insomma vuol dire che cosa mi cambia, quanto ci perdo, qual è la mia tassa, cosa mi converrà a fare. E forse è il caso di tornare su questo passaggio, perché non è un obbligo, è una scelta, Gianni. Esatto, no, poi nel suo caso non ci perde nulla, basta tenersi l'attuale regime di tassazione, entrare in quota esente, e quindi non succede assolutamente nulla. È uno di quei casi, in realtà minoritari, in cui appunto è conveniente il vecchio sistema sul nuovo, e per questo si prevede una scelta e non un obbligo per aderire o meno alla cedolare secca del 25%. Perfetto, per cui attenzione anche su questo. Prima casa, non so che è un po' pedagogico, ma è meglio ripeterlo, prima casa esclusa. Non cambia nulla per chi vuole, per chi dichiara veramente 40.000 euro lordi l'anno, perché questo è quello che guadagna, e avesse 2.000, 3.000 euro l'anno da un affitto, probabilmente non conviene aderire al 25%, ma questo ve lo spiegherà qualunque commercialista. C'è l'aliquota minore che è 23, per cui non c'è nessun problema. È, diciamo, una forma di contrasto per chi a cui viene, diciamo, viene data la possibilità, a chi evade tanto, di dire: guarda, mettiti in regola pagando il 25%, quindi eviti di pagare il 43%, ma eviti anche i controlli. Controlli che a questo punto ha interesse anche il sindaco e il comune a fare. Se poi c'è, come scrivono molti ascoltatori, una commistione tra elettori, sindaco, che il sindaco è il primo a avere le case in nero, ragazzi, io non so più cosa fate, penso che nessun governo possa gestire a questo punto un'anarchia del genere, che purtroppo sappiamo esistere anche, ma insomma si cerca di fare il possibile ragionando su comportamenti anche virtuosi. Grazie, grazie a Gianni Trovati del Sole 24 Ore. Grazie a voi. Adesso abbiamo il metro, la pubblicità e poi la borsa e poi temi anche più di finanza e economia. Intanto ho chiarito un dubbio, il pasticcione era rivolto a me, perfetto, almeno questo Gianni Trovati tira un sospiro di sollievo, e anche la categoria dei sindaci. Avevo promesso invece di farvi risentire un passaggio, anzi due passaggi. Uno riguarda il governatore della Banca d'Italia, Mario Draghi, perché io lo userei veramente come un promo, come una pubblicità anche per questo programma. Quello che ha detto Mario Draghi nel suo intervento all'ultima assemblea delle banche italiane, dell'ABI, che si è tenuta a metà luglio a Roma, quella che ha visto poi l'elezione di Giuseppe Mussari come nuovo presidente dell'ABI, e lo leghiamo al dato diffuso oggi dalla Banca d'Italia, che ha detto: attenzione, nei primi tre mesi del 2010 i debiti a carico delle famiglie italiane sono aumentati del 3%. Voi direte: bah, poca roba. No, sono 24 miliardi in più rispetto ai primi tre mesi di un anno prima, di debiti, cioè da 773 miliardi a 797 miliardi. Una manovra finanziaria in tre mesi. Allora, sentiamo l'appello che ha fatto Draghi non meno di due settimane fa. Non ci sono neanche alternative alla ripresa della crescita. Una crescita che non sia spinta dal debito né dalla politica monetaria, ma che soprattutto in Italia trovi nelle riforme, nel cambiamento tecnologico delle imprese, il suo motore. Le banche hanno un posto speciale nel sostegno alla crescita. Se forti, sono il suo pilastro. Ma vogliamo anche banche che tornino ad essere vicine al sistema produttivo come prima della crisi. E non c'è che un modo: saper discernere l'impresa meritevole anche quando i dati non sono a suo favore. La domanda di credito da parte delle imprese aumenta, ma si ha la sensazione che moltissime imprese, specie quelle piccole, dicono che questa domanda non è soddisfatta. Queste sono spesso le stesse imprese che, nella parte più industrializzata del Paese, dopo aver sofferto nel 2009, cominciano a sentire i primi segni di ripresa, soprattutto attraverso un aumento delle esportazioni. Quindi, insomma, occorre che le banche stiano più vicine alle piccole e medie imprese, che prestino sì con intelligenza e con lungimiranza, ma, e che non prendano assolutamente rischi ragionevoli, ma che stiano vicine a queste imprese. E quindi capiamo benissimo che è difficile fare anche il mestiere dell'impresa bancaria, però insomma è troppo facile comprare bot di vari paesi europei, magari utilizzando soldi in prestito dalla Banca Centrale Europea col tasso overnight, quindi rischio zero, guadagno certo, invece che prestare alle imprese e alle famiglie. E siccome su questa ricchezza delle famiglie italiane, dei lavoratori dipendenti, abbiamo avuto anche uno scontro abbastanza forte in diretta con il ministro Brunetta, io ve lo faccio risentire, perché insomma, qui tutti hanno ospitalità. Appunto, i dati della Banca d'Italia di oggi sono 24 miliardi di debito in più, però Brunetta ritiene che i lavoratori dipendenti da questa crisi non solo non abbiano avuto un danno, ma abbiano avuto anche un aumento del loro potere d'acquisto. Abbiamo circa 30 milioni di redditi da lavoro dipendente trattino pensioni che in questi 12 mesi di crisi hanno mantenuto, se non incrementato, il loro potere d'acquisto. Questo spiega perché in Italia non ci sia la crisi sociale, questo spiega perché non ci siano particolari tensioni sociali nel nostro paese, questo spiega anche, al di là delle valutazioni statistico standard, come sia diminuita la povertà in Italia, perché è ovvio, se aumenta il potere d'acquisto, soprattutto della componente del redditi da welfare, redditi da pensione, dal punto di vista marginale non può che diminuirsi la povertà. Sembra paradossale, rumoreggiate, rumoreggiate pure, ma queste sono le statistiche. Non ho nessuna intenzione di aprire adesso una polemica su, ha ragione la Banca d'Italia, ha ragione il ministro Brunetta sul, scusatemi, sulla ricchezza delle famiglie italiane. È innegabile che con l'inflazione bassa chi ha lo stipendio, il reddito fisso, non l'abbia visto erodersi come è avvenuto per esempio nel passaggio di lira euro. È innegabile che alcuni costi siano rimasti fermi. Secondo me, dire insomma che proprio ci stanno meglio adesso è un po' così, un po' una forzatura, però ognuno può pensare come vuole. Poi ci sono i dati macroeconomici a dirci quello che succede. Prima di arrivare alla borsa, vi dico già il valore complessivo è -0,23 sul Mibtel, -0,12 a Parigi, invariata in questo momento l'America, +0,25 Francoforte e -0,23 Londra, con due casi che si chiamano Mediaset -2,6% e Fiat +3,8%. Vorrei occuparmi del prezzo del grano, che vedo che ha anche molto riscontro dagli sms che arrivano al 349-238-6666, +50% in un mese. Non c'è questa volta nessuna speculazione, diciamo, degli squali della finanza e della finanza derivata. Ci sono casi molto molto più concreti, incendi e siccità in Siberia e in Russia in generale. Allora, prezzi infuocati, ed è il caso di dirlo, visto che derivano anche dagli incendi. Per il grano, in Russia sono bruciati quasi 10 milioni di ettari di coltivazione di grano. Praticamente, per dare un'idea di quanto sono 10 milioni di ettari, sono un'intera superficie forestale italiana. E quindi potrebbero, anzi quasi certo, i raccolti russi dare il 30% in meno rispetto al 2009. Stiamo parlando di 70-75 milioni di tonnellate come raccolta, ma anche se i pessimisti indicano 40-45, addirittura 40-45 milioni di tonnellate. La Russia però non intende limitare l'export di grano per ora, anche se le stime dicono che insomma si potrebbe scendere a 14-15 milioni contro i 21 milioni e mezzo del 2009. Conseguenze, insomma, chi ha investito a Chicago, che è la borsa delle materie prime a livello mondiale, il grano si misura a bushel, come il petrolio si misura a barili, l'oro ad oncia e quant'altro, bushel era il sacco. Il bushel di grano è schizzato solo a luglio del 50%, $6.60 a bushel contro $4.50 a inizio mese, e oggi, per non farsi mancare nulla, $7.3 al bushel sono 27 kg più o meno. Siamo a 0,21 euro al chilo per il grano in consegna a dicembre 2010. E allora la domanda sorge spontanea: chi ne pagherà le conseguenze? Da giro al responsabile economico della Coldiretti, dottor Pietro Sandali, buonasera. Buonasera a voi. Mi faccio indovinare, il consumatore finale? Speriamo di no, anche perché non ci sono le condizioni per aumentare ulteriormente il costo dei prodotti finiti al consumatore, anche perché gli aumenti che noi vediamo oggi, che come dire in percentuale hanno una ridondanza molto importante, in verità sul fronte agricolo ha portato il prezzo interno, parlo ovviamente di quello italiano, come dire, ha portato i produttori ad avere la testa appena appena fuori dall'acqua, cioè a livello di sopravvivenza, perché eravamo finiti molto molto bassi. E questo, diciamo, è il suo augurio. Le chiedo, io veramente non ho l'esperienza su tutto. Quello che so è che sulle materie, in primo luogo le materie prime, quando si ha un calo dell'export così forte, o si arriva a compensare in qualche altro modo, oppure il calo ce lo becchiamo nella filiera. Secondo lei sarà possibile compensarlo, visto che stiamo parlando delle consegne da qua a dicembre, oppure ormai è andata la stagione, è andato il raccolto, e quindi la Russia un meno 30% di grano lo esporterà, e quindi ci terremo i prezzi al bush intorno ai 6-7 dollari. Ma guarda, allora adesso è chiaro che stiamo nelle previsioni e anche i comunicati che noi abbiamo dai vari paesi, dagli analisti che seguono queste cose, tra l'altro cambiano di mese in mese le previsioni, anche perché nel mese scorso sì, sapevamo già della stagione, ma le previsioni di produzione della Russia, anche dell'Europa e anche della stessa Italia, perché anche noi abbiamo avuto dei problemi con le piogge al nord, eccetera, quindi delle rese molto più basse del passato. Solo in questo mese c'è un conteggio sugli eventuali stock internazionali che portano verso il ribasso, e questo è un indice che poi fa oscillare la questione dei prezzi, che vuol dire che il prodotto c'è, però quello che si guarda è lo stock a livello internazionale, a garanzia ovviamente delle prossime annate, ed è quello che è un po' un indice che fa muovere i prezzi. Perché tra l'altro l'ISMEA oggi, che è l'Istat del mondo agricolo, ha segnalato una crescita dell'8,5% a luglio su giugno del frumento duro. Siamo ancora però sotto del 25% rispetto alla quotazione media del 2009. Tra l'altro qua sembra quasi una tempesta perfetta, perché non ci sono solo gli incendi in Russia e in Siberia, ma anche la mancanza di pioggia lì e in paesi come l'Ucraina e il Kazakistan, cioè sono i tre paesi nella top 10 produttori di grano al mondo, a cui si aggiunge anche il Canada, e qui è la beffa, in cui è piovuto troppo, se ho ben capito, per cui il calo della produzione potrebbe essere dovuto all'eccesso di pioggia, cioè non si è mai contento. Ma le ricordo anche la stessa Europa e la stessa Italia del Nord, noi adesso siamo in estate, stiamo soffrendo un po' di caldo, ma fino a un mese fa abbiamo vissuto un lunghissimo inverno molto molto piovoso. E quindi anche noi abbiamo sofferto di questo, soprattutto per le piogge, parlo dell'Italia, che sono arrivate proprio quando era il momento di raccogliere il grano. Vabbè, per cui lei non vede, diciamo, è ottimistico sui rischi di tornare ai record dell'anno scorso, però mi spiega tranquillamente che una volta che c'è un calo del genere della produzione per motivi climatici non lo si recupera, come temevo. Beh, sulla produzione ovviamente quando manca, quando non c'è, non c'è. Però per quanto riguarda la questione dei prezzi, noi dobbiamo sottolineare questo. Noi siamo, come dire, abbiamo passato ormai 2 anni fa, a cavallo tra il 2007 e il 2008, una punta dei prezzi molto molto alta. Da lì è partito anche un aumento al consumo dei prodotti finiti, parlo della pasta, parlo del pane, eccetera, abbiamo discusso e parlato anche voi della stampa per molti mesi di queste tematiche. Ora quel flusso si è fermato, ma si è consolidato verso l'alto, quindi il prodotto agricolo parte da prezzi molto bassi, il prodotto al consumo si è fermato a livello alto, non c'è nessun motivo per avere ulteriori aumenti al consumo, non si spiegherebbero se non attraverso a delle speculazioni vere e proprie. Grazie, speriamo che lei abbia ragione, quindi grazie al responsabile anche economico del Coldiretti per averci raccontato appunto come si stanno muovendo, Pietro Sandri, buona serata. A lei. La borsa, e allora la borsa come sempre con Radio Cori, Sole 24 Ore, meno 0,23, un po' di realizzi, pochissimi spunti, però Fiat più 3,1% nonostante i brutti dati sulle immatricolazioni di ieri, Mediaset meno 2,6% e Unicredito, che è l'altro gruppo oggi importante con la semestrale. Allora Andrea Fontana, Radio Cori, Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Fiat e Unicredito. Fiat ha sicuramente dato dei risultati di immatricolazione auto non positivi, un calo del 35%, però secondo gli analisti era sostanzialmente in linea con le attese, e soprattutto mostrano un mix, diciamo così, di vendite dove cresce il peso dei veicoli commerciali, e questo è molto positivo, ma soprattutto il settore ha sfruttato i grandi risultati del secondo trimestre di BMW, che ha reagito bene anche alla borsa di Francoforte, e questo ha fatto sì che il settore settore auto fosse il settore più vivace oggi, ha guadagnato quasi il 2% complessivamente in Europa, e Fiat ha fatto anche meglio con questo più 3% che la porta sopra 10 euro per azione. Ancora Unicredito, i conti insomma non belli, dopo 6 mesi 831 miliardi, ma insomma rettificati, l'utile scende a 669 milioni, soprattutto per le partecipazioni in Kazakistan, e comunque un meno 11% rispetto all'anno, ai primi 6 mesi del 2009, quello di pertenenza del gruppo è di 310 milioni. La reazione? Sì, la reazione del mercato si è vista immediatamente alla pubblicazione dei conti. Unicredit è arrivata a perdere anche il 3%, poi ha progressivamente ridotto le perdite, ha perso l'1,8 a 2,18 euro, questo è il prezzo di chiusura. È stata penalizzata, come tu ricordavi, soprattutto peraltro nel secondo trimestre, dove gli analisti si aspettavano un utile per 250 milioni, è arrivato invece un utile per 148 milioni, quindi con una differenza di 100 milioni, e questo ha portato immediatamente il mercato a penalizzare il titolo. Ultimo titolo Mediaset, invece, che è il peggiore tra quelli a maggiore capitalizzazione, meno 2,6%. Oggi una brutta giornata per il comparto dei media in tutta Europa, è stato il comparto più messo sotto pressione dagli investitori, in particolare ha pesato il tonfo in borsa, ma come anche nei conti da parte di Sky Deutschland, che ha accusato una perdita superiore alle attese nel trimestre, e questo ha finito per penalizzare il settore, e anche Mediaset, che ieri era stata protagonista di una buona performance, per questo ha corretto, perso il 2,6%. È andata sotto i 5 euro per azione. Grazie Andrea Fontana, Radio Corriere Sole 24 Ore. Altra semestrale uscita oggi, quella di Prysmian, che è l'ex Pirelli Cavi, tra i leader mondiali nel settore appunto dei cavi, dei sistemi per il trasporto, energia e comunicazioni. Stiamo parlando di un gruppo che ha praticamente 12.000 dipendenti, 38 paesi, 53 stabilimenti, 7 centri di ricerca. Come sono andati gli utili? Beh, insomma, così e così, ne parliamo adesso con il numero uno, con l'amministratore delegato di Prysmian, Valerio Battista. Allora adesso parliamo di Prysmian. Ingegner Battista, buonasera. Buonasera a tutti. Ricordavo la vostra presenza internazionale, 5 continenti, al di là dei numeri del fatturato, e il fatto che voi godiate di una posizione di leadership a livello mondiale. Allora, primi 6 mesi dell'anno l'utile è in calo, però la cosa che più ci interessa in questo periodo è vedere non tanto tutti i 6 mesi, ma gli ultimi 3, perché sappiamo che i primi 3 sono stati difficili per tutti. Utile in calo a 77 milioni di euro contro i 94 milioni dello stesso periodo del 2009, 18% di calo. Qualche segnale invece positivo arriva dagli ultimi 3 mesi? Beh, direi senz'altro di sì. Il primo trimestre è stato abbastanza difficile. È chiaro che stiamo confrontando un periodo, il primo quarter del 2009, con il primo quarter del 2010, dove il primo quarter del 2009 era un mercato in discesa, ma che veniva da un 2008 ancora buono. Il 2010 è cominciato invece in modo molto, molto difficile, sulla scia della fine del 2009, che era particolarmente debole in termini di mercato. Il secondo quarter finalmente ha dato segni di ripresa, e quindi abbiamo i numeri in crescita, non particolarmente eccitanti se visti come somma dei due trimestri, ma se uno comincia a guardare trimestre su trimestre vede che c'è un deciso miglioramento. I ricavi sul semestre hanno raggiunto i 2 miliardi 148 contro il 1 miliardo 148 dello stesso periodo del 2009, l'EBITDA 181 milioni contro i 193 del primo semestre. Quindi 2009, gli utili ante imposte, però va detto, diciamo, che questo differenziale di 12 milioni si è ridotto dai 15 milioni che c'era già nel primo trimestre, quindi abbiamo fatto un secondo trimestre in cui l'EBITDA della l'EBITDA lo ricordo a tutti, è sono gli utili prima delle imposte, se no così facciamo margine operativo lordo, margine operativo lordo, gli utili che ha un'azienda prima di pagare le tasse, gli interessi su debiti. Quindi quello è migliorato sicuramente negli ultimi 3 mesi. Questo vuol dire, poi allargando l'orizzonte, che è riparita l'economia in maniera più consistente e strutturata, e da dove vi sono arrivate le commesse, soprattutto Asia? Beh, diciamo sicuramente la parte asiatica, anche la parte sudamericana, ma anche alcuni paesi europei, con differenze fra paese e paese, hanno reagito in modo positivo. Quello che non abbiamo visto ancora è una ripresa stabile, diciamo, dell'area nordamericana. In particolar modo nel settore dei prodotti a più alto valore aggiunto, quindi gli ordini che abbiamo preso recentemente nel settore dei sottomarini e nel settore delle offshore wind farm, quindi dei parchi eolici offshore. Le prospettive quanto a commesse soprattutto sono interessanti adesso per i prossimi mesi, perché si sta ragionando di nuovo su un possibile rallentamento dell'economia cinese, al di là del... su qualche difficoltà dell'economia americana, al di là di quello che poi registrano e analizzano i macroeconomisti. Voi avete un portafoglio ordini, come si chiama in gergo, che vi consente di stare tranquilli, perlomeno di essere cautamente ottimisti nei prossimi mesi? Direi ragionevolmente di sì, in quanto il portafoglio ordini del business a progetti, quindi la parte soprattutto alta tensione sottomarini e energia, ha raggiunto il 1.400.000.000 e quindi rappresenta una quota abbastanza importante dei prossimi quarters in termini di vendite, diciamo siamo abbastanza coperti, soprattutto sui sottomarini. Sull'alta tensione, che è un business terrestre, che è un business a più breve termine, abbiamo comunque una discreta copertura e vediamo miglioramento dell'order income. Concorrenza più forte vi arriva da dove? Perché tra l'altro voi, insomma, il settore dei cavi è un settore ad altissima specializzazione, poi vi fate anche sistemi di trasporto di energia e comunicazioni. Quali sono i concorrenti più temibili che avete e che investimenti anche ritenete di fare, soprattutto in Italia? Soprattutto la francese Nexen, che è la ex Alcatel, e l'americana General Cable, sono i due player più importanti. Abbiamo poi anche player coreani come la LS, e quindi diciamo non siamo soli in questo business sicuramente. Gli investimenti, stiamo continuando a investire in modo focalizzato in tutti i settori di business a più alto valore aggiunto e a più alta tecnologia. In particolar modo gli investimenti adesso sono rivolti all'attività sottomarina offshore, quindi tutti per i parchi eolici, e li stiamo focalizzando ancora nell'area di Napoli. Altri investimenti importanti li stiamo facendo soprattutto in Brasile e in Cina. In Brasile, dove stiamo facendo tutta la parte di investimenti relativi ai tubi flessibili per l'estrazione petrolifera, quindi ancora offshore petrolio, e in Cina, dove stiamo seguendo invece la fortissima crescita del mercato per l'alta altissima tensione e la costruzione delle reti. Grazie, la sigla che è partita ci invita a chiudere, ingegner Battista, grazie a lei e in bocca al lupo a tutti i 12.000 dipendenti di Prysmian, grazie quindi al nostro delegato di Prysmian, e noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Radio 24, la passione si sente.